Friuli nel mondo, 264esima trasmissione dedicata agli emigrati. I Legris Furlans di Feletto Umberto. Non vi spiacerà certamente, cari ascoltatori lontani, se oggi ritorna a voi il coro Legris Furlans di Feletto Umberto, diretto dal maestro Armando Del Fabbro. Coro che vi è stato presentato nello scorso mese di luglio in occasione delle manifestazioni svoltesi per il 25esimo di sua fondazione. In omaggio ai coristi si unirà anche il complesso caratteristico del maestro Degano, con due composizioni che richiamano i più genuini motivi musicali del nostro folklore. E poiché siamo in stagione vendemmiale, cominciamo con Lis Vendemis. Già si sente petta pelle, svolta grossa frontella, ma li troppo vendemà, un infermini se frus, con il novelle, poi la belli della illa, con il novelle, con la belli poi la belli della illa. Agli scronti sparmigiats, e più podi li sergeis, sis bisi en filis vois, nanci un gran alba bis bis. Va de la che fantacine, lance rosse come un flor, si grabata al Salvador, fa di foglia cigica. Morirà, forina belle, poi la belli nella illa. Morirà, forina belle, poi la belli nella illa. Lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, lola, Dio è che il ballo, no, ciò speranze del mio cuor, ciò idi smuar. Nostalgia, dolore e di sogni infranti hanno ispirato a Del Fabbro Dolz Riquart. Some poor, some poor, Chi, lontano dal suo paese, non conserva sempre vivo nel cuore il suono delle sue campane. Eccovi gli Schiampanis de Meville. Eccovi ora il complesso formato da fisarmonica, clarino e contrabbasso, il liron, del maestro Degano, in questa notissima canto-danza di Arturo Zardini, La Staiere. Quanti possono essere tra i friulani di una certa età coloro che non conoscono questo canto preghiera di Franco Escher, composto durante la Prima Grande Guerra? Ascoltate O tu stele, biele stele. Whoa! E chiudiamo il nostro incontro con il complesso musicale di Degano che si congeda da voi con questo scherzo. Duc mi clamin cont. Abbiamo trasmesso Friuli nel mondo, a cura di Ottavio Valerio.